America 24 di Mario Platero. Buongiorno e benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, la faccia all'uomo, ha già portato dei risultati importanti. Uno dei sospetti dell'attentato di Boston di lunedì è stato ucciso, l'altro è ancora a piede libero, ma la polizia lo sta inseguendo. È stata una corsa drammatica che è cominciata nella tarda serata di ieri, quando le prime informazioni sono cominciate a pervenire agli inquirenti e sono partite le squadre di polizia. Centinaia di poliziotti si sono mossi in un sobborgo di Boston, Watertown, e hanno cominciato a perquisire casa per casa il quartiere. La polizia ha cominciato a seguire la pista quando nella notte, in una sorta di sequenza da film giallo, da thriller, è giunta la notizia di un attacco a una stazione dei 7-Eleven. I 7-Eleven sono questi negozi che sono aperti 24 ore su 24 e che vendono ogni tipo di cosa. Ebbene, i due sospetti, sia quello con il cappelletto bianco che quello con il cappelletto nero, lo ricorderete dalle notizie di cronaca, sono stati loro a essere stati individuati nei filmati dell'FBI. Ebbene, e questi due sono entrati dentro questo negozio e hanno rapinato il cassiere e sono scappati via. Dopodiché per la strada hanno fermato una Mercedes, hanno fatto uscire il guidatore con la pistola puntata al tappo, dopodiché lo hanno fatto rientrare in macchina per tenerlo come ostaggio ed è cominciata una fuga. Lungo la strada uno dei due è uscito, si è fermato all'MIT, ormai il quartiere, stiamo parlando del quartiere subito al di là del fiume di Boston, a Cambridge, dove ci sono l'MIT e poco più in là c'è Harvard, dunque nei grandi campus universitari di questa straordinaria città. Ebbene, uno dei due, quello con il berretto nero, ha sparato a un poliziotto dell'MIT, a una guardia di sorveglianza dell'MIT che era nella sua macchina. Non si capisce perché l'abbia fatto, perché questo poliziotto sembra che non l'avesse minacciato. Dopodiché è stato circondato, c'è stato uno scontro a fuoco con la polizia ed è stato ucciso. L'altro sospetto, quello con il berretto bianco, invece è ancora in questo momento a piede libero. C'è una caccia all'uomo, è stato diramato un messaggio a tutta la comunità di restare in casa, di andare in cantina, di non uscire, perché questi sono uomini molto pericolosi. Si conferma, secondo le prime indiscrezioni, non abbiamo ancora nomi, non abbiamo un background su questi individui. Una giornata dunque che si apre con uno sviluppo molto importante. Come vi dicevo, la caccia all'uomo è in corso, la città di Boston è stata chiusa praticamente, il governatore ha ordinato la chiusura di tutte le strutture pubbliche, dalla metropolitana ai trasporti pubblici alle scuole. L'idea è che questo fuggitivo sia pericolosissimo. Ecco, uno sviluppo rapido e a sorpresa dopo la conferenza stampa di ieri, quando un agente dell'FBI aveva comunicato, quando un agente dell'FBI aveva tenuto una conferenza stampa spiegando chi erano questi due detenuti. Sempre ieri a Boston, nella Cathedral of the Holy Cross, la cattedrale della Santa Croce, c'è stata una messa interreligiosa, una ricorrenza interreligiosa per rendere omaggio alle vittime. Avete sentito uno dei cori che ha accompagnato la preghiera, è stato un momento molto commovente, c'erano alcuni dei familiari delle vittime, c'erano lunghissime code fuori dalla chiesa, non tutti sono potuti entrare, dunque si è formata una grande folla al di là del portone, proprio a simboleggiare come la città fosse unita e raccolta attorno alle vittime, attorno al simbolo di quella che è stata la conseguenza di questo orrendo attacco. C'era naturalmente anche il presidente Obama con Michelle, sentiamolo. Today our prayers are with the Campbell family. Their daughter Crystal was always smiling. Boston, siamo con te, ha detto il presidente Obama, ha anche detto che l'anno prossimo ci sarà la 118esima maratona, si andrà avanti, non si guarderà indietro, e ha promesso che i due responsabili, o comunque i responsabili, saranno portati davanti alla giustizia. Ecco, è stata una settimana piuttosto difficile questa per il presidente Barack Obama. Vi ho raccontato delle difficoltà che ha avuto per il passaggio della proposta di legge per controllare la vendita di armi al pubblico al Senato. La legge è stata bocciata per una differenza minima, appena 6 voti. Un altro fatto di cronaca, ecco, in questo caso pare che non ci sia stato dolo, ma c'è stata un'esplosione in Texas a un impianto per fertilizzanti che ha devastato l'impianto e, pensate, ha causato alla fine oltre 40 morti. Sembrava che i morti fossero forse 7-8 all'inizio, in realtà adesso la conta è arrivata a 40 morti, restano alcuni dispersi, centinaia di feriti, un incendio che si è propagato al di là delle pareti di questa fabbrica, e anche lì le autorità stanno cercando di ricostruire che cosa è successo. C'è stata la notizia di una lettera indirizzata al presidente, fermata dalle poste, che conteneva il veleno ricina, che è un veleno che, se lo si annusa, se lo si aspira, può essere fatale. Le autorità hanno arrestato Paul Kevin Curtis, è un personaggio bizzarro, un personaggio strano, pensate, fa l'impersonificatore di Elvis Presley per mestiere, ma sembra che fosse un personaggio così un po' tarato, aveva lavorato in un ospedale, si era fissato che ci fosse un traffico di parti umani, di organi umani, che in Mississippi veniva poi smerciato un po' in tutto il mondo, e dunque aveva cominciato a mandare delle lettere al senatore del suo stato e a varie autorità avvertendole che secondo lui c'era questo traffico, se ne dovevano occupare. Ebbene, nessuno ha fatto nulla, la sua era una semplice fantasia, e nella lettera a Obama menzionava di nuovo questa ipotesi e poi firmava alla fine "This message is authorized by KC", questo messaggio è autorizzato da KC, appunto il suo nome, Kevin Curtis, come fanno in genere i politici durante le campagne elettorali. Una vicenda, vi dicevo, molto strana. In questo caso il colpevole è stato già arrestato. C'è da augurarsi che siano arrestati al più presto anche i due sospetti che hanno architettato e portato a termine il tragico attentato alla maratona di Boston lunedì scorso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Time ha stilato la sua classifica delle personalità più influenti al mondo, accanto al presidente degli Stati Uniti Barack Obama e a Papa Francesco. Il magazine cita anche Jay-Z e Beyoncé, e dunque ci sembra giusto dedicare al rapper la canzone del giorno di Jay-Z, Empire State of Mind. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!